Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, Paul McCartney! Mai come questa volta possiamo dirlo. Le note di Hey Jude, successo senza tempo dei Beatles, hanno prepotentemente riecheggiato nell'aria londinese lo scorso 27 luglio, quando Sir Paul McCartney le ha intonate in occasione della cerimonia d'apertura della 30ª edizione delle Olimpiadi, tenutesi nella capitale inglese. Riecheggiato, in questo caso, è proprio il termine giusto. Alcuni problemi tecnici, infatti, hanno funestato l'audio della performance del celebre baronetto ed ex Beatle. Se l'effetto d'insieme è stato comunque spettacolare, i critici non si sono risparmiati. D'altronde McCartney ha compiuto 70 anni lo scorso 18 giugno, che si è aggiunta anche per lui una delle imperiture leggende del panorama musicale, l'inesorabile età della pensione. Pensionato è sempre meglio che defunto, comunque. La leggenda della presunta morte di McCartney, infatti, lo accompagna fin dagli anni 60. Paul, forse vittima di un incidente stradale a ridosso del Natale del 1965, sarebbe stato rimpiazzato con un sosia e gli altri tre Beatles, nel corso degli anni, avrebbero volutamente disseminato indizi nelle loro canzoni, nel disperato tentativo di dischiudere il terribile segreto della sua assenza. Resterebbe ancora da spiegare come abbia fatto un uomo morto ad attraversare con tanta persistenza gli ultimi 50 anni di storia della musica e a segnarli, oggettivamente, con una quantità spropositata di capolavori. Ma anche il mistero della sua presunta morte, dopo tutto, fa parte della grandiosa leggenda di uno dei musicisti più produttivi e acclamati degli ultimi 50 anni. Una leggenda che inizia proprio là dove alcuni ipotizzano che sia bruscamente finita, a Liverpool. Penny Lane è un luogo fisico, ancor prima che il teatro di una canzone. È proprio qui, all'incrocio fra Smith Down Road, Smith Down Place e Ellerton Road, che un ancora giovanissimo e sbarbato Paul McCartney prende l'autobus per raggiungere il centro di Liverpool. Non è solo durante le sue incursioni nella brulicante vita di città. Con lui c'è anche un amico, destinato a diventare altrettanto famoso, anzi, di più. Su quell'autobus, giorno dopo giorno, si rinsalda la coppia che a tempo debito apporrà il sigillo coi propri cognomi su alcuni dei pezzi più celebri della storia della musica. Paul McCartney su quell'autobus, diretto fisicamente nel centro di una città inglese e metaforicamente al centro del proprio destino, non ci sale da solo. Ci sale insieme a John Lennon. We had a friend in common. Avevamo un amico in comune. Una volta sono andato a sentir suonare il suo gruppo, erano su questo palchetto, il cantante era proprio John. Ho subito pensato che avesse qualcosa di speciale. La musica aleggia nell'aria fin dal loro primissimo incontro. Avevano finito di suonare ed erano in pausa. Avrebbero ripreso a suonare la sera. Nel frattempo che cosa volevi fare? È ovvio, ci si ubriacava. John aveva già bevuto diverse birre quando ci siamo presentati. Poi siamo andati nel backstage e mi ha chiesto di suonargli qualcosa. Me l'ho chiesto con l'alito che sapeva di birra. Mi ha dato la sua chitarra. E io sono mancino, lo sai, però non è che potessi cambiare le corde tutte le volte che suonavo la chitarra di qualcun altro. Quindi, insomma, avevo imparato a suonare al contrario. E devo dire che questa cosa faceva sempre un certo effetto. E poi sapevo anche le parole di una canzone che John amava molto e con questa l'ho conquistato. La canzone era 20 Flight Rock di Eddie Cochran. Ve ne suono un pezzetto, giusto per farvi sentire che cosa mi ha fatto entrare nei Beatles. The elevator's broken down, but I walk on 2, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I'm on 12, I'm starting to sag. 15 before I'm ready to drag. I get to the top, I'm too tired to rock. John rimane piacevolmente impressionato dall'abilità di Paul e dalla sua incontenibile voglia di suonare. Del resto, fin da bambino, Paul è stato abituato a respirare in casa propria un'atmosfera intrisa di note musicali. Il padre James, in passato, è stato un discreto pianista e trombettista jazz, nonché il frontman negli anni 20 della Jim Max Jazz Band. Non stupisce, dunque, che a casa McCartney ci sia un pianoforte in salotto e che Paul, per il suo 14° compleanno, riceve in regalo una tromba, strumento che si affretta a barattare immediatamente con un altro, uno che gli permetta di non avere anche la bocca impegnata a suonare, ma gli dia modo di usarla piuttosto per cantare. La scelta ricade su una chitarra acustica di marca Framus, modello Zenith 17, del valore di 15 sterline, il prezzo di un sogno. John e Paul ormai suonano insieme. McCartney, dopo l'audizione improvvisata nel backstage di una festa parrocchiale, è ufficialmente entrato a far parte dei Quarrymen, prima band capitanata da Lennon. Sono giovani, giovanissimi, 15 e 16 anni appena, eppure sono bravi. In coppia poi i due sono davvero molto affiatati. Imparano la lezione del blues e del rock and roll dagli americani. Little Richard, in particolare, è l'idolo incontrastato di Paul. Long Tall Sally di Little Richard è il primissimo pezzo con cui Paul si sia mai esibito dal vivo. Tuttavia, per ricreare l'energia esplosiva e contagiosa che si sprigiona dai dischi rock and roll dei loro idoli, John e Paul sanno di dover aggiungere qualcosa alla formazione della loro band. Il suono va riempito, rifinito, serve un altro elemento. Paul ha già in mente la persona giusta, si chiama George Harrison. Frequenta la sua stessa scuola, il Liverpool Institute for Boys, e ha la sua stessa febbrile passione per la musica. Era prima, molto prima che diventassimo famosi. Eravamo dei ragazzini come tutti gli altri. Hai presente quando tenti di entrare nei locali, ma non ti fanno mai entrare perché non sei nessuno e gli insegnanti a scuola ti odiano? Ecco. Poi, oltretutto, a quell'epoca il rock and roll stava per sconvolgere completamente le nostre esistenze. E noi stavamo in questa scuola dickensiana. Sì, io la definirei così. La scuola in cui andavamo io e George era dickensiana. Intendo dire che Dickens aveva veramente insegnato in quell'istituto. Più dickensiana di così. Quella scuola ci ha fatto crescere con la voglia di scappare altrove. Ci ha resi affamati. Anche George, come Paul e John, nonostante sia ancora giovanissimo, è già alla ricerca di qualcosa che lo faccia evadere dalla mera realtà e lo proietti in una sorta di universo parallelo. La musica è perfetta per assolvere questo compito. Ci serviva un buon chitarrista. Io e John suonavamo la chitarra, ma non ci mettevamo a fare gli assoli, non eravamo così bravi. Così fui io a dire a John che conoscevo un tizio che era giovane, ma decisamente bravo. John disse, ok, incontriamolo. Io lo proposi a George. E lui disse che andava bene, sì, sì, si poteva fare. E così ci portammo dietro la chitarra. Eravamo al piano superiore di un autobus a due piani a Liverpool, vicino a casa di John, in un posto che si chiama Woolton. Era tarda sera e non c'era anima viva sull'autobus a parte noi. John disse a George di suonargli qualcosa e io bisbigliai a George, dai, dai, piglia la chitarra. Allora George tira fuori la sua chitarra, si prepara e inizia a suonare sto pezzo che si chiama Raunchy e che fa così. McCartney, presentandolo a Lennon, dà una decisa spintarella al destino di George Harrison, che ancora sul momento non si rende conto della gigantesca occasione che gli viene fornita in maniera del tutto gratuita. Beh, devo dire che per me sul momento non ha significato molto. Voglio dire, non fino a quando è diventato qualcosa di concreto. Ma non so, per quanto mi riguarda mi stavano solo presentando a qualcuno. Era una band che non esisteva da molto, che ne so, forse un paio d'anni. E qualcuno mi disse: vedrai, un giorno capirai. E meno male che mi sono unito a loro, a pensarci adesso. E così, ancora una volta, proprio come era accaduto a John e Paul nelle loro incursioni verso il centro di Liverpool, il destino di un altro terzo dei Beatles si compie a bordo di un autobus, anzi, di un double-decker bus, per la precisione, uno dei tipici autobus inglesi a due piani, rossi, scintillanti come le indimenticabili cabine londinesi del telefono. Un autobus capiente, abbastanza grande da essere in grado di contenere il magnifico, gigantesco, glorioso destino che attende tre teenager di Liverpool all'alba del 1958. I Beatles, tuttavia, non si chiamano ancora Beatles. È solo nel 1960, dopo essere passati attraverso una serie di discutibili ibridi lessicali, che decidono il nome definitivo della formazione. Lo fanno in occasione di un ingaggio, il primo ingaggio importante della loro carriera. A partire dall'estate del 1960 e fino all'inverno del 1962, suoneranno ogni sera per lunghi periodi nei locali di Amburgo, in Germania. McCartney ricorda con nitidezza quel periodo. Sei ad Amburgo, hai 18 anni. Non sei mai stato all'estero in tutta la tua vita. Hai i soldi in tasca e cosa fai? Li spendi per uscire a bere il sabato sera. Poi ti svegli la domenica mattina e ti accorgi di aver fatto cose piuttosto folli, come credo avrebbe fatto qualunque altro diciottenne all'estero. Facevamo follie, è vero, però dai, erano normali per la nostra età. Il giovane Paul McCartney ad Amburgo si diverte e si abbandona al clima da gita scolastica, senza nemmeno immaginare che sta forgiando il carattere di una band destinata a scalare le classifiche mondiali. L'età sua e dei suoi compagni, del resto, è lì da vedere. Paul e John sono appena diciottenni, mentre George, ancora minorenne, è posto addirittura sotto la tutela delle autorità tedesche. È costretto, nel novembre del 1960, a rientrare in Inghilterra per aver mentito proprio a quelle stesse autorità circa la sua vera età anagrafica. Anche Paul, per un breve periodo, viene rispedito a Liverpool per aver dato fuoco alla tappezzeria della stanza dell'albergo in cui alloggia. Tra bagordi, moderati vandalismi, scorribande assortite, i ragazzi macinano date e serate perfezionando stile e affiatamento. Una palestra, un training intensivo che si rivelerà fondamentale per la formazione della band e, in un certo senso, per il futuro della musica pop. Immaginatevi la situazione. Come attirare l'attenzione degli avventori tedeschi abituati a frequentare la zona dei locali notturni, specie quelli a luci rosse? Se la musica non è di loro gradimento, non fanno altro che spostarsi nello strip club accanto. Meglio intrattenerli suonando come si deve, incessantemente, per ore e ore di fila. A taste of honey, tasting much sweeter than wine. C'è ancora una questione da risolvere. Nella formazione originaria del gruppo manca un vero e proprio batterista. Certo, un tale di nome Pete Best è stato ingaggiato per accompagnare Paul, John e George nel tour tedesco, ma non si tratta propriamente di un asso. E come se non bastasse, McCartney è convinto, a torto, che la figura del batterista in generale sia del tutto superflua. Sono andato ad Amburgo e ho suonato la chitarra insieme ai miei amici. Eravamo in tre. Suonavamo tutti e tre la chitarra. Io, John e George. Pensavamo che un batterista non ci servisse. Ci dicevamo, a che serve? Il ritmo lo facciamo noi. Il pensiero di un giovanissimo McCartney dimostra ancora tutta l'ingenuità, l'inesperienza tipica degli esordi. Il batterista, a differenza di quel che crede lo spavaldo e incauto diciottenne Paul, è una figura di importanza capitale in una rock band. È un elemento che non bisognerebbe mai trascurare e che invece troppo spesso viene lasciato al caso. Ad Amburgo, tuttavia, i Beatles hanno la fortuna di fare un incontro che sarà decisivo per la loro formazione definitiva, quello con il batterista Ringo Starr, futuro membro stabile del gruppo dal 1962 in avanti. Quando non suonano ad Amburgo, i Beatles furoreggiano a casa propria. A partire dall'inizio degli anni 60, si fanno conoscere ed apprezzare nei locali della nativa Liverpool e in particolare al Cavern Club, aperto in Matthew Street, giusto una manciata di anni prima, nel 1957. Qui suonano per la prima volta il 9 febbraio del 1961. Non sono ancora famosi, ma il pubblico ha già sentito parlare di loro. Anche se non sempre, di fatto, le informazioni sul conto dei Beatles sono corrispondenti a verità. Come ricorda John Lennon. A Liverpool la gente veniva a sentirci e non pensava neanche lontanamente che noi fossimo di Liverpool. Erano tutti convinti che venissimo da Amburgo. Dicevano: diamine, parlano un ottimo inglese. E ovviamente noi lo parlavamo benissimo l'inglese, essendo inglesi. ma ci andava bene così alla fine. Erano le prime volte in cui la gente si fermava lì per applaudirci. Chi se ne frega di quel che pensavano? McCartney e i suoi compagni di avventura non si limitano a suonare nei locali, ma incidono anche un pezzo insieme a Tony Sheridan, musicista conosciuto durante il soggiorno tedesco. Insieme a Sheridan, col nome di The Beat Brothers, nel 1961 pubblicano il singolo My Bonnie. È la loro prima esperienza discografica. L'esordio discografico dei Beatles non vede nemmeno comparire il loro vero nome sulla copertina. Ci vorrà ancora qualche tempo prima che i quattro giovanotti di Liverpool si meritino l'appellativo di Fabulous, che li contraddistinguerà per il resto della loro intensissima carriera. McCartney ancora non lo sospetta, ma di lì a poco intere schiere di ragazzi e ragazze si agiteranno, si muoveranno e grideranno al ritmo della loro musica. All'inizio degli anni 60, Paul McCartney sta facendo tanta sana palestra musicale ad Amburgo, nel nord della Germania, macinando concerti a più non posso. C'è chi sostiene che fu proprio questa esperienza a forgiare la personalità musicale di Paul, John e George. Ora che sono ritornati a casa, si esibiscono al Cavern Club di Liverpool. Ed è proprio qui che il 9 novembre del 1961 vengono notati da un giovanissimo imprenditore e critico musicale, Brian Epstein. A dire il vero, Epstein quella sera al Cavern non è arrivato per caso, ci è andato apposta. Qualche giorno prima un cliente è entrato da NEMS, il negozio di dischi che Epstein gestisce con successo a Liverpool, e ha chiesto espressamente di comprare un singolo. Si tratta di My Bonnie di Tony Sheridan and the Beat Brothers, ovvero i Beatles sotto mentite spoglie nella loro primissima incisione discografica. Epstein, incuriosito dalla richiesta inusuale del suo cliente, si affretta a cercare informazioni e scopre che questi fantomatici Beatles suonano proprio al Cavern di lì a qualche giorno. Non può certo lasciarseli scappare. We proudly present the Beatles! Brian Epstein assiste rapito alla performance dei quattro giovani di Liverpool. Quello che accade davanti ai suoi occhi e alle sue orecchie è strabiliante. La folla, pur ristretta dell'angusto Cavern Club, è invisibilio. E i Beatles, quattro ragazzi diventati maggiorenni da più o meno 5 minuti, sanno tenere il palcoscenico come fossero degli idoli consumati. Ed è proprio in questo che saprà trasformarli l'incredibile fiuto di Brian Epstein. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Eleanor Rigby, come molte altre canzoni dei Beatles, è un tributo ai luoghi che sono stati teatro dell'infanzia e della gioventù di quattro ragazzi inglesi normali che diventano poco più che maggiorenni gli idoli incontrastati delle platee di mezzo mondo. Paul McCartney in Eleanor Rigby ci racconta di un pezzo della sua città. La tomba della signora Rigby l'ha avvistata sul finire degli anni 50 nel giardino della parrocchia di St. Peter a Walton, un quartiere alla periferia di Liverpool. Un luogo emblematico per Paul. È lì che ha assistito per la prima volta a un concerto dei Quarrymen, primissima band di John Lennon, ed è sempre lì che, a fine esibizione, ha avuto modo di conoscere John e di proporsi come membro del gruppo. Eleanor Rigby, insomma, è ambientata là dove si trovano le fondamenta dei Beatles e della strepitosa cordata Lennon-McCartney, un duo che, non troppo lontano nel tempo, saprà produrre alcuni dei frammenti di musica più incredibili della storia del rock. Il destino ha fatto incontrare il giovane imprenditore Brian Epstein a quattro giovani musicisti di Liverpool che suonano al Cavern Club. Non avevo mai avuto niente a che fare con il management dell'industria del pop, dei cantanti pop fino a quel momento. Poi un giorno sono andato al Cavern Club e ho sentito i Beatles. Per me era un mondo nuovo, affascinante. E ne rimasi stregato. L'atmosfera fumosa, scura di quel locale e la musica, quella musica. I Beatles erano quattro giovanotti allampanati, furono introdotti sul palco in maniera sbrigativa e poco teatrale. Io me ne intendevo di teatro, ma al di là di questo fui immediatamente colpito, direi trafitto dalla loro musica, dal loro beat, dal loro senso del humor sul palcoscenico. E più tardi, quando li ho incontrati di persona, sono rimasto folgorato anche da loro, umanamente. Epstein diventa immediatamente un tutt'uno con la band. Il singolo She Loves You esce nell'agosto del 1963 e vende 750.000 copie in 4 settimane. Un record. L'attenzione della stampa e del pubblico inglese nei confronti dei Beatles si fa spasmodica. Da questo momento in poi i riflettori saranno costantemente puntati su di loro, e non solo in patria. Nel febbraio del 1964 i Beatles sbarcano negli Stati Uniti e sconvolgono la televisione americana con la loro performance all'Ed Sullivan Show. È l'inizio della British Invasion. Ladies and gentlemen, the Beatles! Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And while I'm away, I'll ride home every day. And I'll send all my loving to you. Paul McCartney, con caschetto bruno e cravatta, guida la band intonando con sicurezza le note di All My Loving. Il look da piccoli lord britannici, pensato e fortemente voluto dal loro manager Epstein, si rivela un successo e le loro canzoni semplici, orecchiabili eppure potentissime, conquistano rapidamente le platee di tutto il mondo. La musica pop è la musica classica di oggi. Il loro stile personale e musicale negli anni si fa via via più sofisticato, incontrando sempre e comunque il favore del pubblico. Da un punto di vista compositivo, la coppia Lennon-McCartney è capace di produrre meraviglie in serie. Il loro affiatamento è solido, la vena compositiva di McCartney ne beneficia. Da solo Paul è autore di alcune fra le canzoni più celebri dell'intera storia della musica. Se ti svegli una mattina con una canzone in testa e quella canzone Yesterday, penso che quella sia fortuna. Puoi dire che hai imparato a scrivere musica, che il tuo cervello ha immagazzinato tutto il necessario e poi l'ha stampato in forma di canzone. Puoi dire quello che ti pare. Ma io la chiamerei sempre fortuna. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Eppure, prima o poi, ogni grande connubio musicale è destinato a voltare pagina. I quattro di Liverpool hanno macinato tante esperienze in così pochi anni che una grande band di oggi impiegherebbe un'intera carriera. Il logoramento del rapporto fra i due più prolifici autori della band è imminente. Paul McCartney sente che sta per verificarsi un cambiamento importante per la loro vita, per il loro futuro. Eravamo molto amici, molto vicini a livello umano. Le cose che ci sono successe nel corso degli anni hanno cementato il nostro rapporto. E forse sono anche le stesse che lo hanno distrutto. Proprio come accade a molti matrimoni, la relazione Lennon-McCartney alla lunga si sfalda. La loro storia è cominciata molto, molto tempo prima che le platee di tutto il mondo li conoscessero e li venerassero. La pressione del successo, lo stress di una vita sempre in tour o in studio di registrazione, le vicissitudini della vita, senza contare le relazioni sentimentali, che hanno uno spazio sempre più importante nel loro quotidiano, li hanno portati a prendere strade differenti. L'avventura dei Beatles sul finire degli anni 60 giunge al suo termine. È stata fulminea, bruciante, qualitativamente e quantitativamente strepitosa. Ora per Paul e gli altri si apriranno nuovi capitoli. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom. No, non ho lasciato io i Beatles. I Beatles hanno lasciato i Beatles. Ma è chiaro che nessuno vuole essere quello che dice la festa è finita. E comunque sono felice di quello che è stato. Felice che molte delle nostre canzoni parlassero di amore, pace, comprensione. Non ce n'è praticamente nessuna che dica «Forza ragazzi, mandate tutti a fanculo, mollate i vostri genitori!» È tutto molto «All you need is love». Dietro c'erano grandi sentimenti e ne sono molto orgoglioso. Comunque sia, i Beatles sono stati qualcosa di enorme. Nel 1970, Paul McCartney è pronto a lasciare tutto alle spalle e guardare finalmente avanti. Ho pensato, ok, questo è l'inizio di una nuova fase. I Beatles non fanno più dischi insieme. E io cosa faccio? Lascio il mondo della musica e non lavoro più? È impossibile. Il mondo della musica è il mio mondo. Sapevo di dover andare avanti. Il modo migliore per ricominciare è pubblicare immediatamente un nuovo disco. McCartney, album solista che si chiama Guarda caso come il suo autore, esce nel 1970, proprio a ridosso del divorzio con la band. A coadiuvarlo, emotivamente e fisicamente, c'è la moglie Linda Eastman, ex fotografa votata alla musica. Sul conto di Linda si è detto di tutto. Molti la ritengono responsabile, insieme a Yoko Ono, della rottura definitiva del sodalizio Lennon-McCartney. L'arpia bionda e quella bruna che avrebbero distrutto la band più famosa del XX secolo. Un po' riduttiva come spiegazione. La gente pensa sempre che sia facile per chi è famoso, che si sposeranno e vivranno felici e contenti come Biancaneve o Cenerentola con i loro principi. Ma non è così. Le persone famose hanno la stessa vita di tutti gli altri, per certi aspetti. Il fatto che Paul fosse il Beatle più carino non significa che vivessimo in una fiaba o cose del genere. Nel 1971 esce Ram, secondo album accreditato alla coppia formata da Paul e Linda McCartney. Lavorare con la donna che si ama è fantastico, ma Paul sente l'esigenza di rapportarsi nuovamente con dei musicisti di lungo corso. È qui che entra in gioco il chitarrista Danny Lane. Credo che Paul cercasse qualcuno di nuovo, completamente nuovo. Mi chiamò perché mi conosceva, sapeva chi ero. Aprivo dei concerti di Jimi Hendrix in quel periodo e quella sera lì lui era tra il pubblico. Io ero in vena di sperimentazioni e feci una cosa con le chitarre elettriche e due violoncelli e io credo che gli sia piaciuta molto. Avrà anche pensato che era una cosa diversa da quella che sentiva sempre. Insieme all'inseparabile Linda e all'estro di Danny Lane, Paul McCartney sta per iniziare una nuova avventura musicale, quella fortunatissima dei Wings. Paul McCartney, insieme a Danny Lane, all'onnipresente moglie Linda, e a un manipolo di abili strumentisti, forma i Wings, band che esordisce nel 1971 con l'album Wildlife. Se qualitativamente Paul non ha ancora raggiunto i livelli stellari di creatività che caratterizzavano il suo tandem con Lennon, non si può certo dire che la sua vena si sia estinta. Per l'intero corso degli anni 70, McCartney pubblica con i Wings una decina di album. Critica e pubblico li accolgono a fasi alterne, ma McCartney è motivato nel proseguire la propria personale evoluzione musicale. Lui voleva guardare avanti. La gente invece vuole sempre sentire le cose che facevi un tempo, costantemente. I musicisti non è che non vogliano gratificare il loro pubblico suonando i vecchi successi, ma un musicista, per necessità, deve essere proiettato sulla costruzione del suo futuro artistico, del suo prossimo album. Non può passare tutto il suo tempo a guardare indietro. Paul McCartney invece guarda avanti. Così avanti che persino i Wings, alla fine degli anni 70, iniziano a stargli stretti. La band si scioglie ufficialmente nel 1981 e McCartney prosegue la carriera solista, a dire il vero, non completamente solo. To live what we need to survive. Together alive. Nel 1982 McCartney duetta con Stevie Wonder nella celebre Ebony and Ivory. E questa è solo la prima di una serie di collaborazioni illustri. Una su tutte, quella con il King of Pop Michael Jackson. Con lui collabora un pezzo dell'acclamatissimo album Thriller dal titolo The Girl Is Mine. Every night she walks right in my dreams. Since I met her from the start, I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. Solo un paio di anni prima, nel 1980, la vita di Paul era stata sconvolta dalla notizia della morte tragica e prematura di John Lennon. You know, the truth of the matter is when John died. Quando John è morto è stato strano, terribilmente strano per tutti. Figuriamoci per le persone che erano state vicino a lui. Per noi è stato doppiamente tremendo. Doubly, triply weird, you know? Al dolore mai veramente sopito per la separazione dagli altri Beatles si aggiunge quello per la scomparsa del suo ex compagno di scritture sul pentagramma. Ma se la voglia di fare musica non l'aveva abbandonato una volta scioltisi i Beatles, non lo fa nemmeno con la dipartita di Lennon. Paul, per l'intero corso degli anni 80 e 90, oltre che nel primo decennio del nuovo millennio, continua a produrre musica, ad esibirsi spessissimo dal vivo, sia in tour, in giro per il mondo, sia in occasioni importanti ed eccezionali. Al Concert for New York City dell'ottobre 2001, al Live Aid di Hyde Park nel 2005 e in una miriade di altre circostanze nel corso delle quali, spesso e volentieri, si è esibito accanto ad altre grandi stelle del firmamento musicale, ansiose di condividere il palcoscenico con un mostro sacro come Paul. Bono, leader degli U2, è entusiasta di esibirsi davanti alla platea di Hyde Park a Londra insieme a Sir Paul McCartney, l'uomo che a sentire il Guinness dei primati è il musicista e compositore più produttivo della storia del pop, con 60 dischi d'oro e oltre 100 milioni di album venduti. Se John Lennon nel dicembre del 1980 ha avuto la sfortuna di incontrare il suo assassino sotto casa, a George Harrison, il più giovane dei quattro Beatles, non è andata meglio. Un tumore ai polmoni lo ha stroncato nel 2001. E Paul? Non doveva essere lui, quello morto prima di tutti gli altri. Recentemente ci ha scherzato su insieme a David Letterman. Stavamo facendo le foto per la copertina di questo disco, Abbey Road. Persino la copertina merita un applauso, evidentemente. Beh, insomma, dovevamo attraversare sulle strisce pedonali. E io quel giorno avevo dei sandali perché faceva un caldo tremendo. Faceva così caldo che mi sono tolto i sandali e ho camminato scalzo. E da lì hanno cominciato a dire, ecco, i piedi scalzi sono la prova che è morto. Io francamente non vedo il nesso. Può darsi che Paul McCartney sia morto a metà degli anni 60, che il suo fantasma si sia aggirato scalzo sull'asfalto di Abbey Road e abbia infestato per anni i testi delle canzoni dei Beatles. Ma chi ha avuto il piacere di vederlo suonare dal vivo, come è accaduto lo scorso novembre ai fortunati spettatori dei suoi concerti di Milano e Bologna, crede che la leggenda vivente di Paul McCartney, dopo tutto, sia tuttora molto più viva che leggendaria. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give.